Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera ci occupiamo di uno dei tanti punti, diciamo così, di inefficienza del paese, un po' per disattenzione, un po' per il tipo di opposizione pregiudiziale che va abbastanza per la maggiore ultimamente. Qual è il punto? C'è un decreto che dovrebbe essere a un passo dall'essere pubblicato in Gazzetta, che dovrebbe semplificare l'utilizzo di un particolare tipo di rifiuto molto selezionato, il cosiddetto CSS, come combustibile nelle cementerie. Nei paesi europei più avanzati il tasso di sostituzione termica dei combustibili fossili nelle cementerie con questo CSS ha raggiunto nel 2011 il 98% in Olanda, il 61% in Germania, il 45% in Austria e in Polonia. Questa pratica, non a caso, è considerata una BAT, ovvero una, diciamo, la migliore soluzione tecnica applicabile dall'Europa. Ebbene, tra procedure autorizzative complicatissime e la solita opposizione, diciamo, del territorio, che ormai è diventato un po' su tutto in Italia, ebbene, si raggiunge l'8% di sostituzione termica nelle cementerie. Di tutto questo parliamo con Daniele Gizzi, Environmental Manager dell'associazione Hi-Tech, che è l'associazione italiana tecnica economica cemento. Buonasera Gizzi. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo intanto a ricordare così, in estrema sintesi, come si fa il cemento. Il cemento si produce sostanzialmente cuocendo la roccia, calcare e argilla, materiali estratti dalle cave, cuocendole a 1500 gradi in forni industriali. Quindi servono ingenti quantità di combustibili per raggiungere quelle temperature. Quindi si prendono un po' di sassi, gli si butta dentro con un rapporto 1 a 15, se non sbaglio, carbone, esatto. Si cuoce il tutto, viene fuori una sorta di torta che poi va sbriciolata, polverizzata, quello lì è il cemento. Assolutamente, dal forno da cemento esce un semilavorato che si chiama clinker, che okay. Non è altro che un minerale artificiale derivante dalla cottura di calcare e argilla. Il clinker, macinato insieme ad altri componenti come il gesso ad esempio, forma il cemento. E qui parliamo di sostituire almeno una quota di quel carbone che usiamo per la cottura con questo CSS. Intanto che cos'è? Il CSS è l'acronimo di combustibili solidi secondari, che è un concetto che in Europa esiste dal 2006 e che in Italia abbiamo recepito dal 2010 nel nostro testo unico ambientale. I combustibili solidi secondari sono combustibili appunto derivati dal trattamento di rifiuti non pericolosi. Sono una grande famiglia di materiali che comprendono sicuramente l'ex CDR, il combustibile derivato dai rifiuti urbani, famoso in Italia e anche normato in Italia, ma comprendono tutta un'altra tipologia di scarti che possono rappresentare per alcuni settori industriali ancora delle risorse, come ad esempio i pneumatici fuori uso, come ad esempio i fanghi da depurazione delle acque reflue urbane essiccati e tante altre tipologie di materiali. Prodotti materiali, per esempio quando si fa la raccolta differenziata, una parte della raccolta differenziata diventa rifiuto indifferenziato che però può essere utilizzato a questi fini, per esempio, no? Assolutamente, ecco, corretto. Quali sono i vantaggi di utilizzare questo rifiuto diciamo selezionato al posto del carbone nel ciclo di produzione del cemento? Innanzitutto ci sono dei vantaggi a livello ambientale, e i vantaggi a livello ambientale sono sicuramente, rispetto alla marcia a soli combustibili fossili, una diminuzione di alcuni parametri emissivi per questioni di processo e di composizione dei materiali. Cioè? Un primo abbassamento sicuramente delle emissioni di CO2. Certo. I CSS che contengono biomassa consentono alla cementeria di emettere meno CO2 rispetto alla marcia a combustibili fossili. Non solo, spesso si sarebbe bruciato in un inceneritore quei rifiuti e bruciato carbone in cementeria, quindi come dire, già solo questo dimezza le emissioni. Un altro parametro emissivo che migliora sono gli ossidi di azoto per questioni tecniche di processo, i famosi NOx. Temperature, cioè, di combustione più basse. Però mi lascia aggiungere che è un vantaggio comunque per legge. Perché per legge le cementerie che coinceneriscono CSS sono soggetti a limiti più bassi rispetto alle cementerie che non coinceneriscono CSS. Tra l'altro, a differenza del caso dell'inceneritore, quando si bruciano i combustibili in una cementeria non si ha neanche il problema delle ceneri, perché queste diventano cemento. Glielo confermo, l'unico materiale solido che che esce dal forno della cementeria è il clinker, che come dicevo prima è un semilavorato che macinato insieme a gesso e altri componenti fa il cemento. E che contiene anche le ceneri, diciamo, del combustibile bruciato, che sparisce, viene immobilizzato poi quando si fa il cemento. Si trasforma un rifiuto, che è una cosa che costa smaltire, in un prodotto, cioè in una materia prima che semmai ha un valore, e quindi questo naturalmente farà ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti, no? Certo, si riducono anche i costi di produzione dell'industria cementiera, certo, assolutamente. Certo. Però se questo comporta i vantaggi ambientali che le dicevo, un minor ricorso alle discariche, come giustamente sottolineava lei, possiamo dare un contributo al problema rifiuti in Italia. E poi si attiva anche una filiera tecnologica, realisticamente, no? Di rifornimento di questo tipo di cicli, certo, produttivi, sì, che per esempio è presente forte in Germania, dove bruciano nelle cementerie i nostri CSS che gli spediamo su pagandoli per prenderseli. Volevo capire che capacità di assorbire rifiuti potrebbero avere le cementerie se venisse adottata in modo, diciamo, molto diffuso questa pratica. Guardi, se noi ipotizziamo una percentuale di sostituzione calorica pari al 50%, leggermente inferiore a quella che lei citava a inizio intervista della Germania, del 61%, l'industria italiana del cemento potrebbe utilizzare circa 1,5 milioni di tonnellate di CSS, che sono, come abbiamo spiegato, un combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti. Senta, il decreto in arrivo chiude il problema oppure, insomma, restano un po' di cose in sospeso? Il decreto in arrivo, il decreto che a certe condizioni eleva dallo status di rifiuto e lo trasforma in uno status di prodotto per questi CSS, non risolve la situazione di complessità delle procedure autorizzative, perché purtroppo c'è un altro pezzo di modifica normativa da fare, ma ci sarà molto da fare sull'altro aspetto, che è l'aspetto di comunicazione. Grazie Daniele Gizzi. Grazie a lei, arrivederci. Anche per oggi abbiamo finito, ci risentiamo lunedì.